e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo con Risto Radio Convento in compagnia di due amici speciali più uno aggiunto, vero? Come si chiama l'aggiunto? L'aggiunto si chiama Matteo. Da dove vieni Matteo? Vengo da Bergamo e vivo a Zurigo. Perfetto, come mai vivi a Zurigo? Perché ho studiato là 2 anni all'ETH, che è il Politecnico Federale di Zurigo, e adesso ho iniziato a lavorare lì. Fantastico, siamo interessatissimi a questo. Ma invece poi abbiamo un applauso, tra l'altro non ti ha applaudito una ragazza qualunque, ti ha applaudito in carne ed ossa la Regina dei Carpazi. Ce l'abbiamo qua. Come ti chiami, Regina dei Carpazi? Regina dei Carpazi. Ah, perfetto, giustamente non vorrei... giusto, no? Come ti chiami, Regina dei Carpazi? Regina dei Carpazi. Non fa una piega. Ed è qua col suo re. Il suo re, sei il suo re? No. No, vengo dalla luna. Viene da... Ulla. Tra l'altro stasera è piena. Te lo vedo di buon umore, eh. Quando è piegato invece non sei di buon umore, perché vieni dalla luna? La luna nera. No, la luna storta. Tra l'altro approfittano per darsi le testate. A noi piace così. Ecco, sono ragazzi che si testano tra di loro. Fantastico. Allora, è la vostra prima volta al convento? Si vede, infatti parlano in sintonia. C'è rimasto male, perché anche lui vorrebbe prendere una testata. No, dalla... no, vieni, parlate tutti assieme in un microfono solo. Che... È la prima volta anche per me, devo dire. Sono qui con i miei amici, con una squadra di pallanuoto che si chiama Palombella. Ah, la Palombella! Esatto, e veniamo da Bergamo e ci alleniamo lì. Siamo qua per festeggiare la sera di Natale. Fantastico. Da Bergamo in territorio bresciano, pericoloso, direi. Che fai salire la rissa? Così proprio, lei è rissaiola, eh? Tra l'altro mi stava chiedendo se siete venuti a nuoto, cioè avete risalito qualche fiume e siete sbucati dal lago. L'idea è che nuotiamo poco ma ci divertiamo tanto, quindi come potete vedere stasera siamo qua tutti insieme per festeggiare. Appassionatamente. Un'altra domanda che mi diceva Sara, la regista dei Carpazi, tra l'altro non dovevo dire il nome, è se quando entrate in piscina siete tutti con l'accappatoio e fate un tipo uno spogliarello stile YNCA prima di entrare in acqua, perché avrebbe intenzione di venire a vedervi. Quello devo dire che non succede, però veramente, come ripeto, ci divertiamo tanto e siamo una squadra un po', diciamo, anomala, perché ci alleniamo pochissimo e la maggior parte del tempo è dedicato a feste, raduni, cene, e poi ogni tanto ci alleniamo. Ogni tanto, ecco, fate anche quello. Sì, tanto sono i paparazzi. Tra l'altro vi hanno già riconosciuto, cioè avete già dei fan, praticamente, ecco, sembra di essere, non vi sembra di essere dentro l'acquario? Sì. E i pesci sono... Sono quelli che dicevo, appunto, ogni tanto ci alleniamo anche con loro. Anche con loro. Tra l'altro fa un gesto simbolico di apprezzamento nei tuoi confronti. Vuol dire yes. Non hai salutato il ragazzo? No, anche lui, ecco. Ti è venuta voglia di andare a giocare con loro? Sì, molto. E tra l'altro vorremmo formare proprio una squadra femminile di pallanuoto. Ah. Che attualmente è un po', diciamo, carente nell'ambiente, soprattutto nella nostra zona. Non vorrei mi si ingrossassero troppo le spalle. Pensavamo qualcos'altro, ecco, perché devi sapere che la caratteristica della regina è che se nuota a dorso sembra che ci sia tipo un cammello nell'acqua. Gli squali. Due squali, tra l'altro. Lo squalo pipinna, no, come dico? Lo squalo pipinnato. Potrebbe... Ok, questo è un momento di un bip bip bip. Questo è il cervello della regina che ci sta sporconando in diretta, praticamente. Ah, ricordiamo che siamo in diretta, siamo in diretta su Risto Radio Convento, la radio web, e ci stanno ascoltando non so quanti, però qualcuno ci sta ascoltando. Abbandonate la diretta al più presto. È pericolosissimo. E venite qua al convento, però, no, giusto? Esatto. Matteo, com'è stata la serata? Serata strepitosa. Ci sono i fiumi di Amaro Montenegro che girano e non prendono nessuna sponsorizzazione dell'Amaro Montenegro. No, niente. Ma quelli veramente come tavolo, devo dire, ce li siamo persi ancora. Forse siamo arrivati un po' in ritardo e quello non ha accelerato la Perché cosa. Chi gioca pallanuoto non può. Non può, esatto. Mi sfugge, deve essere una nuova regola che hanno introdotto quest'anno, sai? Nuove regole FINA. può essere. Non te lo vuol dire, ma il nuovo presidente Matteo della vostra scuola, della Palombella. Tu sei in panchina. In realtà era proprio uno di quei due che si stava sbracciando, cioè, qua fuori, quello alto. Che mi faceva... Quello alto è il presidente, quello appiccicato al vetro che sembrava esatto, un pesce pulitore, praticamente. Che tra l'altro E questo cos'è? Lui è un autogiocatore. Peccato che da casa non possono vedere, però se me lo descrivi almeno capiscono che cosa ci si è appiccicato allora, al vetro. Lui è Musetti, quindi giocatore della Pallanuoto Milano, classica posizione a centro boa, quindi si occupa praticamente di sotterrare un avversario in acqua, letteralmente prendere la palla e segnare. Questo è stato il suo stile di vita per gli ultimi meno male 15-20 anni. Infatti abbiamo visto che ha preso la forma della boa nell'ultimo che fa che appunto è della Pallanuoto Milano, anche se è un innesto per la Palombella di Bergamo. Per la Palombella di Bergamo, ovviamente. E quest'anno Bacombella, perché abbiamo fondato una nuova squadra, quindi ci siamo raddoppiati. Si raddoppia, eh? E la regina dei Carpazi cosa dice? Com'è stata la tua serata? Mi ritiro per deliberare. Cioè, come giudice Santilicheri questa praticamente, cioè, bellissimo così. La volete come, non so, come sponsor ufficiale, come la regina dei Carpazi, una roba... Sì, la teniamo lì a, diciamo, a bordo vasca, come diciamo noi, per sollevare l'animo. A dire il vero, motivation. Posso fare anch'io la boa. Sì, l'abbiamo già spiegato il perché. Non solo per i Carpazi. Aspetta che Matteo... Sandro, io volevo introdurre un argomento a proposito di boe. Sì, introduci. Perché non parliamo del saluto gioviale? esatto, che è un famosissimo saluto. Tu lo conosci il saluto gioviale? No, mi manca questo. Allora, ti incarico di andare nella zona roulette, dove c'è la nostra collega che si chiama Nadia. Ok, dove non si possono appoggiare i bicchieri sopra quel tavolo. Bravissimo. Che mi hanno cazziato subito, sono arrivato lì, ho appoggiato il bicchiere e ho detto: cosa stai facendo? È una roulette! Ecco, esatto. Che alcuni scambiano per la sala. Esatto. E devi chiedere a Nadia del saluto gioviale. Perfetto. Vuoi una pillola da parte della regina, che anche lei è molto propensa a salutare giovialmente? Cosa dovrei aggiungere? Non sai cos'è? È gravissimo. Lo spieghiamo brevemente o ti lasciamo la sorpresa? Cosa dici, Matteo? Lasciamo la sorpresa o lo possiamo spiegare? Le sorprese sono sempre gradite. Sono sempre gradite. Allora ti lasciamo la sorpresa. Tu gliela fai dopo quando capisci che cos'è? Allora, una promessa. Strappiamo una promessa, dai, che lui, guarda, fai vedere il fisico atletico. Facciamolo. Fammi l'atleta. Fammi una nuotata, guarda. Ecco, questo. Questo proprio atleta tipo greco, diciamo, posizione. Esatto, e per il pubblico a casa e anche per la regina dei Carpazi, cos'è quello? Sono dei commenti all'esterno. State dicendo, siete dei due pirla. Lo capisci il labiale? Dopo facciamo una spaghettata a casa tua o a casa mia, quello sta dicendo. No, dicevamo, per il pubblico a casa e per la regina dei Carpazi, tu sei single, fidanzato? Cosa? Fidanzato? Fidanzato. Convivo, sono andato a convivere da 3 mesi con la mia ragazza su a Zurigo. Su a Zurigo, quindi. Allora niente saluto gioviale. Niente saluto gioviale. Ci te la sei bruciata. Solo per i single. Solo per i single, questa prerogativa qua, per il convento. Va bene, sarà per la prossima volta allora. Sì, ma. Speriamo di no. Come speriamo di no? No, beh, speriamo che rimane fidanzato, dici? Appunto. Esatto. Nel caso. Però ricordiamo che Sara, la regina dei Carpazi, è single, giusto? Ancora? No, non si sa mai che... Guarda, se ti interessa, io sono arrivato qua con 27 pallanuotisti. Quello che è? Briga? Quale? È pregatore questo? No, che fa? Cioè, mi minaccia? Questo è un'altra delle nostre boe. Lui si chiama Ugo. Ugo? In realtà non si chiama Ugo, ma è il soprannome che gli abbiamo dato, perché per noi si chiama Ugo. E sai in dialetto bresciano come si dice nuoto? No. Te lo spiega Matteo? Come si dice nuoto in dialetto bresciano? Si disnua. No, ma dillo più italianizzato. Non lo dica lei. Ugare? Ugo? Io Ugo. Ugo! Dice un fondo di verità dentro, cioè, questo nostra... cos'è? No, purtroppo mi piacerebbe che ci fosse una webcam, perché lui, veramente lui escono dei possiamo farlo entrare. È il presidente della Pallanuoto, c'è pieno di pesci pulitori. Sì, veramente. Devi vedere il giorno dopo questo vetro della radio, che cioè veramente, cioè, se vuoi prendere qualche microbo speciale, guarda, Ugo. Lasciamoli fuori, per favore, non facciamo assolutamente. Lasciamoli fuori, anche perché questa è zona off limits. Il tempo sta per scadere, ecco. E intanto voi salutate a casa, che io guardo un attimino come si fa a spegnere qua. Ecco, ciao a tutti, buona serata, aspetta. Buone feste, buon Natale, baci e bracci. Aspetta. Ma te lo sei scritto? Via la reclama. Ma te lo sei scritto? Cioè, via la reclama, pensavo. Di solito uno non sa cosa dire, questo qui, cioè. c'è il gobbo lì che ti sta spiegando tutto. No, beh, va bene, ok, lei se l'è bruciata, saluti. Matteo, saluta te con classe tutto il gruppo di stasera. Oggi da pozdravim, svira, zoomete, eh? Perché siamo internazionali. Ha ordinato due pizze capricciose al più presto, tra l'altro in una pizzeria della Bulgaria, della insomma, Bosnia. Ecco, però della Bosnia e Erzegovina. Però ecco, siccome c'è il servizio rapido, tempo qualche ora arriva. Ok, quindi hai salutato così? Non saluti il resto. Ciao a tutti ragazzi, vi aspettiamo alla prossima puntata del convento. Fantastico, questo è una voce sensuale. Vuoi dire qualcosa a te? Glu glu glu. Cosa devo aggiungere, ragazzi? Basta, buona serata e andiamo avanti. Concludiamo questa serata e divertiamoci. Va bene. Ciao ragazzi, ciao, è stato bellissimo. Ciao, ciao, ciao, ciao.